Allora, bisogna sapere che le donne hanno un'abitudine di fare anche un po' di terapia ascoltando le amiche, oppure dicendo, ascoltando quello che un uomo che gli racconta, mi ha fatto bene questo farmaco. Le donne devono sempre andare, più che gli uomini, andare dal medico, perché hanno un corpo che è leggermente, che è diverso da quello maschile, e inoltre, ovviamente, come ha detto lei, le donne, mi scusi, la dose media è stata fatta per un uomo di 70 kg, le donne pesano 50 kg, pesano 10 kg meno circa, quindi sono più piccole, e questo per certi farmaci, diciamo così, ha un indice terapeutico, cioè che poi, in cui l'efficacia e l'effetto tossico sono molto vicini, può provocare più problemi in una donna rispetto ad un uomo. Quindi, professoressa Franconi, il messaggio è: nell'attesa che la situazione cambi e qualcosa sta cambiando, attenzione all'interazione tra farmaci, ma non solo tra farmaci, ma anche tra farmaci e rimedi, erbe, integratori. Sì, molta attenzione alle interazioni, perché le interazioni, per esempio, ci sono interazioni molto importanti che avvengono con i contraccettivi orali, e le donne, tra l'altro, non dicono al medico di medicina generale di prendere contraccettivi orali se non c'è una precisa richiesta. Quindi dire sempre al medico che si prende contraccettivi orali, ed inoltre perché i contraccettivi orali, per esempio, interagiscono con farmaci molto comuni, per esempio con alcuni antibiotici, e si può addirittura avere la perdita dell'effetto anticontraccettivo, mentre alcune volte si può avere un aumento della tossicità del farmaco associato al contraccettivo. Ma quello che vorrei ricordare alle donne è che quando vanno in erboristeria devono stare molto attente, perché per esempio un farmaco fitoterapico usato tantissimo dalle donne, l'iperico, che viene usato per sintomi depressivi eccetera, e questo può interagire con la pillola e può far perdere attività alla pillola.